These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Ora 21:30, anzi ore 21:28, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, come ogni lunedì c'è Disorder da adesso sino alle 23 circa. Su queste frequenze, per l'appunto 87.9 e un sito internet che è www.ondarossa.info. Questo per sfruttare il nostro streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder uscirà podcast e playlist. Ricordo il radio abbonamento, questa iniziativa che ha avuto anche un successo notevole lo scorso anno e che ripetiamo quest'anno. 1000 ascoltatori, 30 euro cada uno per arrivare a 30.000 euro, che è la cifra minima per gestire per molto tempo questa radio, che naturalmente è fatta di bollette, affitti eccetera eccetera. Quindi, per chi fosse interessato, va sul sito della radio, clicca il banner e segue le istruzioni puntuali. Salutiamo Maya dalla Sardegna. Andri Rivieni, musicista industrial dal nord Italia, non credo dal Piemonte. Lucia Chiaiazzan, quel di Udine, in arte Lupsi. Salutiamo anche Marco qui a Roma, e noi si va ad iniziare con un progetto storico proprio qui di Roma, che a breve, o forse già è uscito in questi giorni, è tornato appunto in auge con questo album dal nome Cosmos, e sto parlando di Exit Refugium Peccatorium, progetto molto particolare, molto eclettico, che unisce indubbiamente influenze gothic, ma le va a unire anche all'ambient, alla psichedelia e anche all'elettronica, e quindi uno sguardo abbastanza ampio per quanto riguarda il campo della musica. Un album che è l'ideale successore di Xaus, uscito molto tempo fa, se non ricordo male nel 2005, e fa parte di una trilogia dello scrittore Carl Sagan, e che avrà anche un seguito, forse quest'anno, con un album che potrebbe e dovrebbe chiamarsi Nova Humanitas. Quindi lo cominciamo a conoscere con Laggiù lontano nel futuro e La divina giostra. Abbiamo cominciato a conoscere le complessità contenute in questo cosmos di Exit Refugium Peccatorium. Un progetto romano fondato dai due fratelli John e Salvatore Vallejo, di origine cilena, ma da molti anni trapiantati qui a Roma. Con John al sintetizzatore, basso, chitarra e pianoforte, e la voce di Salvador oltre alle sue chitarre. Un album che unisce umori apparentemente assai distanti tra loro. C'è sicuramente del goth, ma anche del dark ambient, della psichedelia, anche nella seconda traccia, La Divina Giostra, questa lunga traccia. Ho captato degli umori anche trip hop alla Massive Attack. Ma fondamentalmente ha proprio una struttura quasi da rock opera psichedelica questo lavoro, che poi nella seconda parte invece si apre verso lidi molto molto più elettronici. Insomma, un disco che ruota praticamente a 360 gradi nel grosso universo della musica. Intanto benvenuto a Eloquence Recycle qui a Roma, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Saluto di nuovo Andy Rivieni, musicista di Attualità Nera e tanti tanti altri progetti industrial che andremo anche a apprezzare presto a prove tecniche di trasmissione. Ci chiama, anzi ci ascolta da Alessandria, e il Piemonte in genere ha dato alla luce tanti talenti nel genere industrial e dintorni, che in maniera molto abile ha accostato il canto di Salvatore anche a Scott Walker. Anche un qualcosa quasi di muezzin, qualcosa anche di arabeggiante nel modo di cantare di Salvador Vallejo. Buonasera anche a Isa Etual in Qual di Milano, Antonio Zovet a Firenze. Come le scorse settimane, anche questa sera avremo molto molto materiale italiano. Infatti ce ne andiamo a Brescia, ce ne andiamo da Roberto Del Vecchio, vecchia conoscenza, e scusate il gioco di parole, dei Les Chemins Discordants, dei Gotica. E attualmente lui porta avanti questa nuova avventura dal nome Shadow World, dei quali abbiamo apprezzato il primo lavoro nelle scorse settimane, di ispirazione fondamentalmente neofolk. Salutiamo Herpsalv, Salvador Vallejo, intanto che forse ci sta ascoltando. Tornando a Shedward, invece, questa sera cominciamo a conoscere il secondo lavoro uscito proprio sul finire dello scorso anno, che si chiama Desert Land, e che si scopre subito abbastanza diverso, già che entra in maniera, non dico prepotente, ma in maniera tangibile anche una parte elettronica che era assente nell'album precedente. Quindi A Place Called Home, Dead or Alive e Adil, le tre tracce che ho scelto da questo Desert Land per Shadow World. In change.

Love is real.